Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. In Svezia, patria ammirata dai socialdemocratici italiani, lo Stato dà un bonus uguale ad ogni famiglia, che può essere speso in una scuola pubblica o in una privata. Non capisco perché, se spendo per la retta della privata, devo anche pagare le tasse per quella pubblica. Simone. Dalle notizie che ho potuto sentire fino ad oggi, non è emerso nulla riguardo alla CAI sui risparmi legati alla gestione di impresa. Pare che tutto si giochi sul 7% di taglio degli stipendi. Ma facendo due conti, 20.000 dipendenti che prendono mediamente 2.500 euro, considerando un costo di 5.000 euro inclusi i contributi, si ha un risparmio mensile di 7 milioni di euro al mese, che però, a fronte di 2,5 milioni di euro al giorno di perdite, ossia 75 milioni al mese, sono, se non trascurabili, di certo nettamente insufficienti, rappresentando solo il 10%. Come pensano quelli della cordata di poter arrivare a chiudere un bilancio inattivo in tempi brevi, senza indebitarsi come Alitalia? Saluti, Paolo. Grazie alla vicenda Alitalia abbiamo imparato quanto sia rischioso e massacrante il lavoro di alcune categorie, in particolare piloti e assistenti di volo. I piloti, oltre al rischio, effettuano circa 600 ore di volo all'anno, in media 11 ore e mezza alla settimana. Gli assistenti di volo sono esposti a pericoli, hanno una grande responsabilità nel garantire sicurezza ai passeggeri e, come i piloti, sono costretti a dormire lontani da casa, in hotel di alto livello. Chissà cosa ne pensano i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, gli autisti di camion, gli operai edili, gli operatori della sanità, eccetera. Oltre a questo, abbiamo anche imparato che in caso di difficoltà delle aziende, non tutti i lavoratori hanno diritto di essere aiutati allo stesso modo. L'unica cosa positiva è che Alitalia, venduta o fallita, smetterà di essere un pozzo senza fondo che mangia i nostri soldi. Marco, Brescia. Alitalia non poteva e non doveva fallire, perché al magistrato incaricato del fallimento bisognava poi spiegare e dare conto delle pessime spese aziendali, dei supercontratti e dei tanti soldi dei cittadini buttati dalla finestra. Poiché cane non mangia cane, tutti d'accordo sulla nuova Alitalia. Ci si dimentica del passato, dei favolosi stipendi ai vari amministratori, tanto ci sono gli italiani che pagano. Amnistia per tutti, nessuno è responsabile. Gli unici a essere additati sono stati i piloti e gli assistenti di volo, colpevoli, si dice, di difendere dei contratti in precedenza firmati con l'accordo di tutte le parti, anche dei sindacati. Poi che fine hanno fatto i soldi? Ve lo dico io. Lap dance, prostitute, droga, vacanze esclusive alla faccia degli italiani. È la stessa situazione dei rifiuti a Napoli. Migliaia di miliardi spariti, dei quali si sono perse le tracce. E i rifiuti sono ancora là, che si chiedono quale destino li aspetti. Se da una parte bisogna ringraziare i vari governi che si sono succeduti, sono molto scettico sulla magistratura. Farà qualcosa nel tempo, pagherà senz'altro qualche testa di legno, ma alla fine anni di processi, miliardi spesi e condanne che non fanno né caldo né freddo. I libri contabili dell'Alitalia bisognerebbe portarli in Cina, in Giappone o in Arabia. In poco tempo si accerterebbero le responsabilità e si giudicherebbero i colpevoli. Mi presento, sono un sessantenne metalmeccanico di Vicenza, ammalato di cancro da 3 anni. Per la legge 104 ho fatto domanda per avere 3 giorni di permessi lavorativi al mese e mi sono stati rifiutati. Voglio fare ricorso e mi accorgo che ormai i ricorsi amministrativi bisogna farli attraverso l'autorità giudiziale, cioè bisogna fare causa all'INPS o a chissà chi. Per cui aspettare la causa, eventuali ricorsi, eccetera. La durata media dei processi è 10 anni. Questo vale per tutti gli invalidi e i disabili che vogliono presentare i ricorsi. Aspettare, aspettare, aspettare, che il disabile muoia. Così non rompe le scatole. È più importante l'impunità, la prostituzione, i rom, che gli invalidi e i pensionati. Questo vale anche per i sindacati e le varie associazioni, che sulla pelle di noi malati hanno trovato il modo per fare soldi e per procurare lavoro per gli amici degli amici. Antonio. Sento sempre più forti suoni di trombe e canti pieni di odio nei confronti dei dipendenti di Alitalia, che hanno la grossa colpa di aver trovato occasione di lavoro in questa azienda. Vedo che dal punto di vista mediatico, i piloti in particolare, sono sempre al centro della bufera, pieni di colpe e responsabilità nel difendere la loro casta privilegiata. Questi uomini e donne, viziati e pieni di soldi, non vedono nemmeno un palmo dal loro naso, nemmeno quando si trovano senza lavoro. Ma è davvero così? In questi 20 anni, senza una vera direzione, durante i quali si sono alternati manager diversi e di breve durata, con politiche spesso contraddittorie, che avevano impedito all'azienda di scegliere il suo business ed esserne coerente fino in fondo, è normale che i lavoratori della stessa Alitalia abbiano cercato di andare avanti, visto che si trattava del loro lavoro. Di contro, è normale che qualcosa in più negli anni sia stato concesso loro. Poi sarebbe davvero bello capire quanto di più, ma il vero problema è che la casta dei piloti non è proprio una casta, visto che in Europa esistono forti associazioni di categoria di lavoratori altamente specializzati e di piloti, appunto. Sento molte notizie di dati poco corretti e articoli scritti solo per scatenare i malumori dell'opinione pubblica contro i piloti di Alitalia. Ribadisco che bisogna conoscere il mondo del trasporto aereo e il suo business per poter fare valutazioni bilanciate. Parlare a caso di retribuzioni o giorni di ferie, senza nemmeno conoscere che tipo di lavoro è quello del pilota o di un equipaggio navigante, è davvero un limite enorme che l'informazione italiana ha in questo momento. Senza considerare che in Europa i piloti di altre compagnie guardano con preoccupazione a questo attacco mediatico. Mario da Roma. Egregio direttore, l'Alitalia è un microcosmo che replica perfettamente, in piccolo, la nazione. Perché stupirsi? Perché indignarsi? Perché scandalizzarsi? Nella compagnia di bandiera sono presenti tutti i pregi e i difetti della nostra società. Si dice che la colpa sia della politica, che poi usa il proprio potere per giocare con i vertici e i sindacati. Ma chi elegge la classe politica? Noi. Guardiamo all'Italia e non ci rendiamo conto che guardiamo noi stessi allo specchio. Ma come spesso avviene, non ci si riconosce quando l'immagine rispecchiata non piace o non è gradita. Quando quello che non piace emerge, ecco comparire il più grande nemico della nostra nazione, il guelfismo e ghibellismo, che tradotto significa che la colpa è sempre dell'altro, mai nostra. All'Italia morrà e poi rinascerà, ma non più come prima. Mi chiedo se anche alla nazione sia in serbo lo stesso destino. Distinti saluti, Giorgio. Cara Radio 24, sento l'esortazione di Fantozzi a volare con Alitalia. Personalmente lo farò, forse, solo se saranno estremamente concorrenziali alle altre offerte, comprese le low cost. A parità di prezzo, o anche a fronte di biglietti solo di poco più economici dei concorrenti, sulle rotte che dovrò prendere, non acquisterò di certo un biglietto Alitalia. Non voglio rischiare di essere contaminato dalle radiazioni che evidentemente hanno bruciato i neuroni di buona parte del simpaticissimo personale di bordo, che tanto ha contribuito a farci amare questa fattispecie di compagnia aerea. Roberto. Dottor Santalmassi, buongiorno. Non so come iniziare, tale è l'emozione. Come se fossi in diretta telefonica. Ho sempre apprezzato la sua moderazione e fermezza, là dove erano necessarie entrambe. Mi beo del sentirla solo saltuariamente quando, in viaggio per lavoro, mi trovo a percorrere diverse ore in auto e, devo ammettere, l'ascolto talvolta per caso, non avendo conoscenza degli orari in cui trasmette. Complimenti ancora per tutto quello che fa, assieme ai suoi collaboratori. Addendum. So dei suoi trascorsi in Rai e, vista la TV spazzatura di oggi, non mi sorprende che anche lei, come altri suoi collaboratori, vedi il dottor Garanzini, rimaniate lontano da tutto ciò che non ha senso. Però sono un quasi cinquantenne, con due figlie, di 17 e 10 anni, che purtroppo subiscono il tam-tam di questi media invasori, contenenti assolutamente il nulla. Non ritiene che restare al di fuori di certa TV possa, nel tempo, legittimare chi la produce, ma soprattutto far capitolare chi la subisce, senza nemmeno accorgersene? Rimpiango i bei tempi del commissario Maigret di Gino Cervi e, anche se milanese da 5 generazioni, le commedie di Edoardo De Filippo, veri depositari dell'arte e del comunicare con la lettera maiuscola, da qualunque latitudine provengano. Oggi, tra Isole dei Famosi e non, Fattori e Maiali, con un Costanzo che alla sera fa il moralista, dopo che per tutto il pomeriggio sua moglie ha stordito i nostri figli con le liti a copione tra boys and girls, nulla facenti, ma dove andremo a finire? Forse il sultano di Arcore è il solo a saperlo veramente. Scusi, ho un po' divagato e ho scritto con un po' di confusione in testa. Ma forse è l'effetto di quella TV spazzatura che subisco involontariamente. Complimenti ancora e viva Radio 24. Marco da Paderno Dugnano. Riguardo il tema di tagli all'editoria, io penso che, intanto, si potrebbero togliere tutti i finanziamenti a quelle pseudo-pubblicazioni, tipo quelli delle banche, assicurazioni, eccetera, che non legge nessuno o quasi. Ci sono molte associazioni e strutture che pubblicano pseudo-riviste in fondo alle quali non c'è però scritto il numero delle copie distribuite. Se le vogliono pubblicare, se le facciano pagare. Per quanto riguarda le strutture di partito, chi è interessato al partito compra il giornale per avere informazioni di partito. Allora che si aumenti il prezzo. I sindacati, con le quote che chiedono, possono benissimo finanziarsi i loro giornali senza dover ricorrere ai contributi. E comunque che li facciano a pagamento. Anche le riviste. Sono piene solo di pubblicità e non dicono niente. E vedo riviste che compaiono, a mio avviso, solo per la pubblicità e il finanziamento. Il mercato così potrebbe offrire forse solo giornali seri. Io, se compro una rivista o un giornale, li compro perché mi piacciono, per quello che si scrive e per come lo si scrive. Per verificare, spesso compro o leggo giornali o riviste di opposte fazioni. Andrea da Mestre. È vergognoso che ci debbano essere aziende di serie A e di serie B. Perché chi fa editoria deve avere finanziamenti anche se crea un prodotto? Perché sempre di prodotto si tratta che nessuno o quasi vuole. Altre aziende che producono manufatti non hanno nessun contributo, nessuna detrazione di imposta, nessun finanziamento. Sono titolare di una piccola impresa. 3 anni fa ho creato un prodotto innovativo, l'ho brevettato e ho fatto fiere. Ho fatto quello che i politici ci dicono sempre di fare: innovazione, diversificazione e ricerca. Ho chiesto qualche contributo e dalle istituzioni non ho ricevuto nulla. Ripeto, nulla di nulla. E chi vende, o meglio non vende, giornali, deve ricevere finanziamenti a pioggia? Ma questa non è democrazia. E non venitemi a dire che solo l'editoria è libertà e pluralismo. Roberto. Cara Radio 24, domenica a Varese, in Italia, abbiamo vissuto la bellissima vittoria di Alessandro Ballan ai mondiali di ciclismo. Mi ha disturbato la quantità sproporzionata nei vari servizi televisivi di bandiere della Lega e scritte Padania dappertutto. Ma soprattutto mi ha disturbato l'esecuzione dell'inno nazionale, che è stato trasformato in una marcetta ridicola, senza offrire la possibilità di cantarlo e saltando addirittura dei passaggi musicali. Se si potesse, citerei per danni morali chi ha diretto l'orchestra e ha rovinato una grande festa. Saluti, Mariella. Cara Mariella, la sua è una lettera apparentemente da piccolo sfogo. In realtà, secondo me, è di grande significato. I mondiali di ciclismo a Varese sono stati per qualcuno che cosa? L'occasione per dichiararsi esistenti in vita, nulla di più. Non ne avevano bisogno la Lega e i suoi uomini di governo e il suo riformismo. Si è affermata. Che bisogno c'era di fare la strapaesana? Nessuno. Peccato, perché sembriamo portatori di un federalismo, come dire, provinciale, tra virgolette. La ringrazio, Mariella. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.